Microfoni tecnologici cablati dai colletti. Dicevo, è cosa un po' imbarazzante. Io ho la mia esperienza, non conta sicuramente gli anni che contano Dario e Renata, perché è iniziata soltanto 10 anni fa, nel 1996 appunto, ed è iniziata in un momento molto particolare, perché quando mi sono affacciato al lavoro in campagna, decidendo di recuperare un fondo di famiglia, un fondo di proprietà familiare, la politica agricola comunitaria da qualche anno aveva iniziato ad incentivare le forme di conduzione ecocompatibili e aveva iniziato ad avallare e a promuovere le misure agroambientali. Quindi il momento in cui io ho iniziato a lavorare era un momento particolare, particolarmente fortunato da un punto di vista della politica agricola comunitaria, perché si aveva l'impressione, io ho avuto l'impressione di cavalcare un'onda favorevole, non tanto perché i contributi che si percepiscono in agricoltura non sono assolutamente diciamo straordinari come molte volte si crede, però sono un aiuto, sono uno stimolo, ma soprattutto ho iniziato con la consapevolezza di aderire a delle misure che avrebbero in qualche modo poi condotto il mio lavoro negli anni e avrebbero potuto farlo crescere. Di fatto così è stato. Contestualmente, negli stessi anni, la politica agricola comunitaria ha iniziato a promuovere un concetto diverso, un concetto nuovo di impresa agricola, non più intendendola soltanto come produttrice di beni alimentari, ma concependola anche come fornitrice di servizi, e quindi l'idea di assegnare all'agricoltore anche un ruolo di operatore culturale sul territorio, o comunque un ruolo imprenditoriale agrituristico capace di fornire i servizi più diversi da quelli didattici, che sono stati ricordati da Renate, che sono appunto tanto importanti, a quelli da tutti conosciuti della ristorazione, del pernottamento e molto altro. Mi sono trovato, da un punto di vista così di riferimento culturale normativo, immerso sin dall'inizio in una dimensione europea che ha dato una sicurezza al mio lavoro, e soprattutto la consapevolezza di lavorare in un ambito allargato di operosità, di spinte, di attese. E immediatamente mi sono trovato anche a dover operare all'interno di un territorio molto particolare. La mia azienda è situata all'interno di una zona di interesse naturalistico del Parco Agricolo Sud Milano, quindi una zona dove i vincoli sono particolarmente restrittivi e anche, se vogliamo, condizionanti per l'attività di un agricoltore, ma questo è stato da subito uno stimolo, perché ho sentito negli strumenti di pianificazione territoriale, nel piano territoriale di coordinamento del parco, che peraltro è stato approvato nell'agosto del 2000, quindi molto dopo l'inizio del mio lavoro alla Forestina, ho sentito un'opportunità e ho trovato proprio un'opportunità. Quindi ho unito al riferimento della comunità europea un riferimento più diciamo immediatamente territoriale, quello del Parco Sud con i propri strumenti di pianificazione territoriale, stipulando delle convenzioni, quindi misurandomi in un rapporto come privato con le istituzioni. Convenzioni legate a progetti naturalistici, la reintroduzione di specie anfibie a rischio di estinzione, convenzioni legate alla promozione delle tecniche di coltivazione ecocompatibili, attività dimostrative sulle tecniche culturali del mais biologico, convenzioni legate al recupero dell'assetto originario a Querco Carpineto del bosco, quindi dei progetti con una forte ricaduta culturale al di fuori dei confini naturalmente dell'azienda all'interno dei quali sono stati realizzati. Dico questo perché in un certo modo questi due livelli, quello della comunità europea, dei riferimenti normativi della comunità europea e dei riferimenti normativi del Parco Agricolo Sud Milano, sono stati delle garanzie rispetto al mio lavoro. Ma è altrettanto vero che ho sempre lavorato nella consapevolezza di un'emergenza ambientale, di un rischio costante di forti modifiche territoriali e soprattutto nella consapevolezza che quegli strumenti di pianificazione territoriale che dovrebbero essere una garanzia per la vocazione spiccatamente agricola del nostro territorio e per la persistenza di una naturalità di spiccato valore ecologico e naturalmente con un ritorno di ambiente, di salute, di aria pulita, così per la città di Milano. Oggi, stamattina ero ad un convegno a Pavia, organizzato dal filosofo Luciano Valle su agricoltura, etica e bellezza. Uno dei relatori era Walter Ganapini, presidente di Greenpeace, e ha richiamato quella famosa foto satellitare veramente inquietante in cui vediamo come la pianura padana sia una delle regioni più inquinate a livello di qualità dell'aria del mondo, proprio una regione inquinatissima. Quindi pensiamo ad esempio da questo punto di vista al valore della continuità dell'agricoltura nel basso milanese come garanzia proprio di salute pubblica. Il grande Parco Agricolo Sud Milano, che abbraccia il basso milanese come grande Green Belt attorno a Milano e come garanzia della qualità dell'aria e della qualità della vita dei milanesi e di tutti i comuni del parco. Ma dicevo, ecco, che la tristezza, se vogliamo, di questi anni di lavoro così, diciamo, così convinto, così persuaso, ho introdotto i metodi della coltivazione biologica, ho puntato molto alla vendita diretta, ne parlavo prima, stabilendo un rapporto molto bello negli anni con i consumatori. Adesso facciamo la vendita nel nostro orto attraverso il raccolto diretto da parte degli acquirenti, che è un modo di avvicinarsi completamente diverso al prodotto e anche e soprattutto all'agricoltura biologica. Ma dicevo, questa dimensione così ricca di aspetti e di spunti positivi è sempre stata in qualche modo negli anni minacciata da qualcosa che attorno a tutto ciò che facciamo si muove ed è costantemente presente. A un certo punto il presidente della regione Lombardia Formigoni nel 1999 firma all'improvviso un documento per la costruzione di un impianto di compostaggio, che naturalmente noi vediamo con tutto diciamo il nostro apprezzamento rispetto al tipo di impianto, no, immaginato, ma in una zona a rischio idrogeologico sita all'interno del bosco di Riazzolo. Grande battaglia del Parco Sud, di privati che si sono posti, di Italia Nostra, eccetera, su una questione che sembrava decisa, che sembrava i progetti infrastrutturali che vengono ad investire un territorio così prezioso come il nostro, fra il Parco Sud e il Parco del Ticino, e che sembrano davvero così sopradimensionati, così scriteriati, così profondamente in contraddizione con ciò che tutti, le istituzioni in primis, affermano rispetto ai requisiti del nostro territorio. Cioè questo progetto richiamato da Paolo prima di ampliamenti degli attuali sedimi stradali, di costruzione ex novo di altri sedimi stradali, viene a realizzarsi. Adesso abbiamo un progetto approvato dal CIPE, cioè l'ultimo progetto elaborato dalla Regione Lombardia è stato approvato dal CIPE. Vengono a realizzarsi su un territorio che contestualmente, nello stesso identico momento, viene proposto, ad esempio, mi riferisco per l'asse Milano-Abbiategrasso, viene proposto alla Regione Lombardia come area da definirsi e diciamo proprio da contrassegnarsi a parco naturale ai sensi della legge quadro 394 del 91, cioè da una parte si riconosce al territorio quell'alto grado di vocazione agricola, quell'alto grado di conservazione di aspetti naturalistici che ne segnalano un valore peculiare. Dall'altro lato vengono costantemente avallati per ragioni economiche o presunte tali progetti che sono francamente del tutto distruttivi di questi valori. Ci si muove e si vive da questo punto di vista con difficoltà all'interno di una realtà agricola, perché se si desidera vivere e lavorare con uno sguardo allargato a ciò che avviene attorno a noi, si continua a percepire, si percepisce con forza questo aspetto proprio di minaccia che costantemente pende sul lavoro degli agricoltori, e soprattutto si percepisce, e questa secondo me è la cosa più grave, un forte scollamento culturale fra il mondo rurale e il mondo urbano. Cioè sembra proprio che la città e la cultura delle città non sia più in grado di riconoscere quel valore millenario che l'agricoltura è stata in grado di assegnare ad un territorio, contraddistinguendolo nella sua identità rurale, nella sua precisa identità rurale. Uno scrittore attentissimo alle ragioni dell'economia, attentissimo alle ragioni anche della viabilità, con una conoscenza tecnica del mondo agricolo molto precisa e molto elegante, Carlo Cattaneo, parla rispetto a questo millenario lavoro che ha formato ad arte un territorio che è stato consegnato di generazione in generazione come valore produttivo, come valore estetico, come valore morale, di un immenso deposito di fatiche. E parla della perseverante e intelligente laboriosità con cui generazioni di uomini hanno lavorato questa terra per poter garantire la qualità di un prodotto, per poter garantire la continuità della vita, la continuità stessa dell'esistenza. Ecco, sorprende che non si sia più in grado di riconoscere la compresenza di questi valori che abbiamo questa sera più volte richiamato, cioè il fatto che non ci si renda conto con questa continua emergenza, ad esempio, della qualità dell'aria che segna la vita dei milanesi, che soltanto la continuità dell'agricoltura e del sistema agricolo a valle di Milano può essere un'origine, una scaturigine di salvezza e di garanzia. Non si capisce come mai una città come Milano, che per generazioni, per secoli, ha investito i propri capitali anche sulla campagna, adesso disdegni completamente ogni rapporto di sensibilità e di attenzione rispetto al rurale. Cioè, quando si immaginano queste nuove arterie, stradali, questi ampliamenti, queste nuove strade, eccetera, sorprende completamente come il problema dell'agricoltura, il problema della continuità dell'agricoltura, non sia assolutamente sentito, venga anzi fortemente minimizzato. Noi siamo stati spettatori di quello che è accaduto nell'alto milanese e non è difficile immaginare, qualora questi interventi vengano realizzati, nell'arco di pochi decenni delle modifiche drastiche da un punto di vista territoriale della nostra campagna. Quindi io penso che si debba lavorare tutti e iniziative come quelle di questa giornata sono molto preziose per recuperare da una parte la consapevolezza di principi elementari che sfuggono ancora una volta all'attenzione dell'uomo, cioè noi coltiviamo questa terra per poterci garantire dei beni alimentari che sono ad esempio i prodotti che questa sera abbiamo insieme degustato. E la pagina che ho letto di Bonvesin della Riva questa sera, di questo grande autore milanese del 200, è una pagina dove viene immediatamente messo in rilievo come le due realtà, la realtà della città con tutta la sua vitalità, con tutte le sue peculiarità anche culturali, e la realtà della campagna siano compenetrate, siano unite inscindibilmente l'una con l'altra. Allora sarebbe bene che a tutti i livelli, dai produttori, dall'impegno dei produttori al mondo associazionistico, a diciamo le figure che maggiormente insomma possono essere di nostro riferimento in ambito politico, cioè ci fosse una riflessione, una nuova e attenta riflessione sul valore d'insieme del territorio rurale, un valore dove convivono e sono compresenti valori economici, valori morali, valori storico-culturali. Nessun anello deve essere sacrificato e credo che la consapevolezza e la capacità di incidere e di suscitare attenzione attorno a questi temi spetti a noi e sia una nostra precisa responsabilità. Una giornata come questa è una giornata importante, una giornata preziosa, però è anche una giornata in cui sentiamo, avvertiamo, se dobbiamo, io sono felicissimo di come è andata questa giornata, però avvertiamo che ad esempio la risposta della città, che la città è poco presente. Dobbiamo fare in modo di stimolare ed accrescere l'interesse e l'attenzione da parte del pubblico sui temi che trattiamo e sui temi che ci stanno a cuore. Secondo me la chiave di un'iniziativa come quella di quest'oggi è la chiave ideale, quella di portare l'agricoltura in città, portare i produttori con la loro semplicità e la loro qualità a contatto con i cittadini, proporre delle degustazioni che non abbiano il carattere della sacralità ma che abbiano il carattere della ruralità, il carattere dell'ospitalità, il carattere della chiarezza, della trasparenza e cercare di mantenere vivo il rapporto fra tutti i soggetti sociali, cioè il fatto che il Folletto in questi anni abbia stabilito, lo dico appunto come esempio riguardante la mia azienda, un contatto con me, e il fatto che in questi anni si siano avute occasioni di collaborazione è del tutto prezioso, perché il Folletto mi dà la misura di quello che può accadere in città e che si muove attorno alla città, e mi dà la misura di come le nostre forze e la nostra capacità di partecipazione rispetto ai problemi che incombano possano, unendosi, dare dei risultati migliori. Quindi mi piace molto il fatto che ci sia questa trasversalità che ci accompagna. Grazie mille.